anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records per il recupero vinilico del vostro sabato sera, del vostro e del nostro, si spera, sabato sera. La sigla ritrovata come titolo della trasmissione promette. La storica sigla che è ritornata dopo un annetto buono di dispersione. Queste erano i Lesdipack Sound con Psyche Rock. E stasera, anzi, per cominciare sempre con le consuetudini, ripartiamo subito con i nostri indirizzi qua di Radio Wombat per mettervi in contatto con noi. Il sito web, il sito della radio per sentirci in streaming e per i podcast è sempre radiowombat.net. La nostra frequenza in onde medie sulla vostra autoradio, sulle vostre radioline, se abitate nel comune fiorentino, è sempre 1359 1359 in AM. I nostri, prima dei canali social, voglio sempre ricordare la nostra mail, che è postawombat@insiberia.net, i nostri canali social su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Però appunto ripartiamo con questa puntata numero 47 di Basement Records, e come già da due puntate fa ormai di Basement Records, dove misi solo 7 pollici, questa volta andiamo ancora ad esplorare gli ultimi ritrovamenti vinilici che appunto ho recuperato da chissà quanti anni di polvere in qualche cantina sparsa per Firenze, grazie all'associazione Manitese, che ringrazio per appunto per il supporto di queste future puntate di Radio Wombat, i dischi che ascolterete stasera e anche nelle prossime puntate provengono appunto dai ritrovamenti, da questa associazione a scopo benefico. E qua sul piatto appunto ho una chicchina che andremo a esplorare ben nel profondo stasera, perché è una raccolta, è il primo numero di una vecchia storia del jazz in più volumi, edito dalla Fabbri Editori negli anni 70. Questo primo volume di questa raccolta è curata da un grandissimo, forse il primo più grande, il primo critico italiano specialista sul jazz, ovvero Arrigo Polillo, che tra l'altro ha scritto anche una bellissima enciclopedia sul jazz in italiano, credo, non voglio dire fesserie, ma credo fosse la prima scritta in lingua italiana, quindi una vera eminenza in ambito, Arrigo Polillo. Voglio ricordare appunto che era talmente uno studioso della materia che poi alla sua scomparsa tutto il suo materiale che aveva raccolto nella sua vita è stato tutto completamente donato all'Università di Siena sugli studi jazzistici, e addirittura poi infatti il Siena Jazz, che è quello che è nato dalla branca musicale dell'Università di Siena, ricava tantissimo è stato iniziato appunto dagli studi di Arrigo Polillo. Infatti è stato anche istituito un premio a suo nome, proprio che viene dato dall'Università di Siena ai musicisti in ambito jazz ritenuti meritevoli, ecco, musicisti e non solo. Però andiamoci ad ascoltare il primo brano selezionato da Arrigo Polillo di questa prima raccolta. Partiamo da, si può dire, le origini del jazz registrato, e andiamo a New Orleans, doverosamente. Questo è un brano suonato dalla New Orleans Rhythm Kings. Questa è Sweet Lovin' Mama. Ebbene, visto che siamo in ambito, come amo fare quando parlo di jazz, ebbene ricordare i membri del gruppo che suoneranno il brano che andremo a sentire. In questo caso la formazione è composta da Paul Mares alla cornetta, George Brunis al trombone, il grande Leon Rappolo al clarinetto. Spesso i grandi clarinettisti degli anni 20 avevano origini italiane, tra l'altro. George Brunis, già detto, Mel Stiltzler al pianoforte, Ben Pollack alla batteria, Questo è un brano che è stato registrato il 12 marzo 1923 a Richmond, nell'Indiana. E questo è Basement Records, Radio Wombat. Questo era Sweet Loving Mama dei New Orleans Rhythm Kings, proprio uno straclassico suono degli anni 20 di New Orleans, e appunto per ripercorrere i ruggenti anni 20 adesso ci andremo ad ascoltare da un altro LP appunto scovato recentemente. Un altro grande maestro, adesso siamo andati a sentire quel suono da parata, no? Da marching band tipico degli anni 20, dei ruggenti anni 20 di New Orleans. Adesso ci spostiamo sempre negli stessi anni, sempre negli anni 20, però con un'altra tipologia di suono. Uno dei tanti suoni, possiamo dire, che hanno poi formato il jazz generalmente conosciuto, una delle tante componenti che hanno dato poi origine a quello che verrà definito come jazz. Sto parlando del ragtime, e in questo caso una autentica leggenda del ragtime, ovvero il pianista Jelly Roll Morton, uno che tra l'altro amava definirsi il re del jazz, perché poi appunto ha avuto una carriera abbastanza lunga, e quando poi il jazz è esploso a livello di tutti gli stati americani e iniziava a vendere, aveva pensato bene di fregiarsi. Non è stato solo lui, ovviamente, come quando parliamo dei padri di un qualsiasi genere, amava fregiarsi anche appunto con il titolo di padre del jazz. E la carriera di Jelly Roll Morton è fatta di sedute al pianoforte. Appunto era un pianista e aveva iniziato nella storica Storyville, nel quartiere a luci rosse di New Orleans, dove tanti avevano iniziato, e poi, diventando famoso, ha iniziato a girare gli stati dell'America. E se ci andiamo a riascoltare adesso questi suoni così persi in così tanto tempo fa, non possiamo fare a meno di farci ritornare in mente magari le sonorizzazioni dei primi film muti, ad esempio. Infatti il Ragtime era abbastanza usata per questo scopo e è un suono che almeno a me appunto fa tornare in mente le immagini dei documentari e dei film di quegli anni. Era fondamentalmente una musica da intrattenimento, infatti spesso e volentieri veniva suonata nei saloon, nei bordelli e così via. Adesso appunto di Jelly Roll Morton, registrato il 17 luglio del 1923, per primo ci andremo a ascoltare Kansas City Stomp, Kansas City che poi ritroveremo non a caso lungo il percorso della puntata di stasera. E appunto andiamoci ad ascoltare questo Stomp di Jelly Roll Morton, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Dove se no? Questa era Kansas City Stomp di Jelly Roll Morton. Adesso ci andremo ad ascoltare un altro brano io lo definirei il re del ragtime. In questo caso, però, il brano che ci andremo ad ascoltare è meno danzereccio e puntato al ballo rispetto a questo stomp. Infatti, è un brano di derivazione blues, si chiama il Jelly Roll Blues, proprio il blues con la firma di Jelly Roll sopra. In questo caso è sempre il buon Jelly Roll Morton in solo al suo piano. Ed è stato registrato il 9 giugno del 1924. Questo è Jelly Roll Blues di Jelly Roll Morton. E qui siamo sempre a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. Benissimo, ho appena notato un piccolissimo dettaglio a cui abbiamo assistito fino adesso alla mia insaputa. Questo è uno delle problematiche che vengono fuori con il trasmettere per stasera con un solo giradischi. Infatti, vi saranno sembrati particolarmente velocizzati, non lo so. Cioè, io ci ho fatto casa adesso. Ora, Jelly Roll Morton era uno che suonava particolarmente veloce, e anche i New Orleans Rhythm Kings, però le impostazioni del giradischi erano rimaste come sigla voleva, ovvero a 45 giri invece che a 33. Infatti questi erano due LP e la velocità era aumentata di una bella picciata di più 5. Quindi sì, l'avete sentiti comunque. Diciamo che erano delle versioni belle spinte di queste hit degli anni 20. Gli abbiamo dato un po' di gas in più, diciamo, e va bene così, perché Basement Records è anche questo. Però torniamo alla velocità normale, visto che siamo negli anni 20 e siamo andati ad esplorare per adesso l'ambito di New Orleans. Ebbene, adesso ho in mano, pronto ad essere messo sul giradischi, un nuovo ritrovamento, un vinile che mi ha colpito subito, perché qui si parla di una, anche in questo caso, una raccolta. Infatti ora in questa puntata vi proporrò un paio di brani, uno per lato di questo meraviglioso LP, ma ce lo ritraveremo anche in seguito nelle prossime puntate, perché appunto in dei vinili come in questo caso, che sono delle raccolte, mi piace andare a prendere un po' in qua e un po' in là. E appunto questo è un LP che raccoglie il, diciamo, un po' il meglio delle band di un altro posto simbolo, un'altra città simbolo dell'evoluzione del jazz, ovvero il suono di Kansas City. E in questo caso ci andremo ad ascoltare quello che è stato, diciamo, il primo più grande jazzista e direttore d'orchestra più famoso della città, ovvero Benny Moten, un artista la cui orchestra è stata veramente la vera fucina, la vera palestra per tantissimi jazzisti che verranno poi in seguito, da lì nel resto degli anni della storia del jazz. Solo per dirvi i più famosi nell'orchestra di Benny Moten, che era un pianista, che tra l'altro aveva inserito anche delle influenze nel modo di suonare il piano del boogie-woogie texano. Appunto nella palestra dell'orchestra di Benny Moten si sono formati dei musicisti del calibro di Count Basie, di Coleman Hawkins, di Philly Joe Jones, di Hot Lips Page, Walter Page, Charlie Parker, Jimmy Rushing, Big Joe Turner, Ben Webster, Mary Lou Williams e ultimo, ma non ultimo, The President, Lester Young, cioè, voglio dire, una palestra che credo abbia contribuito veramente tantissimo alla formazione del suono del jazz classico, via, diciamo quello di prima degli anni 50, che ci siamo fatti ai nostri giorni. Qui stiamo parlando di storia vera e propria, e vale la pena di ricordare come mai Kansas City, in quegli anni era così in voga. Perché aveva un governatore che se ne strafo fondamentalmente, perché dopo la chiusura dello storico del quartiere storico a luci rosse di Storyville a New Orleans, Kansas City, diciamo che con il suo governatore bellamente se n'era fottuta del cambiamento delle leggi, e continuarono a vendere alcol nei tempi del proibizionismo, gioco d'azzardo e chi più ne ha più ne metta. Quindi c'era bisogno di intrattenimento, e tantissime band che si erano formate a New Orleans poi andarono a suonare a Kansas City e soprattutto a Chicago. Infatti Kansas City insieme a Chicago, a New York, a Los Angeles, a New Orleans e a St. Louis sono state le vere fucine del jazz nel paese. E adesso, appunto, dopo questa lunghissima introduzione, mi sa che mi sono, credo di essermi abbastanza dilungato nell'introduzione. Adesso ci andremo ad ascoltare la Benny Moten's Kansas City Orchestra, registrazione avvenuta a St. Louis il 29 novembre del 1924, i cui interpreti, la cui formazione era Lamar Wright e Harry Cooper alle trombe, Tamon Hines al trombone, Woody Walder al clarinetto e al sax tenore, Harlan Leonard al clarinetto e al sax alto, Benny Moten, ovviamente il band leader, al piano, e Sam Tolle al banjo e Willie Hall alla batteria. E questa è South dei Benny Moten Kansas City Orchestra, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. questa era South dei Benny Mothens Kansas City Orchestra. E adesso ritorniamo al primo dei precedenti vinili, che appunto dicendo che essendo raccolte mi piace appunto andare a spiluccare, e in special modo da questo vinile, appunto da questo volume 1 della raccolta della storia del jazz, con i brani selezionati appunto da Arrigo Polillo. E dopo aver fatto un giro da New Orleans a Kansas City, dopo esserci andati ad ascoltare le marching band, essere stati dentro ai bordelli di Storyville con il ragtime di Jelly Roll Morton, e dopo essere stati nella ridente Kansas City, ritorniamo a New Orleans con un passo successivo del jazz. Ci andremo ad ascoltare una band composta da, così a occhio direi, da tutti musicisti bianchi, credo. Infatti qui si vada già, siamo alla fine degli anni 20, siamo nel 27, la Grande Depressione sta per arrivare. Questa sembra una formazione, la definirei Dixieland, ovvero il suono dei neri di Storyville di New Orleans, reinterpretata e risuonata dai musicisti bianchi che si erano fiondati su quel nuovo genere di successo. E in questo caso credo sia un'altra marching band a vedere, anzi no, per niente, perché alla batteria, e quindi non può essere una marching band. C'era uno dei primi grandissimi musicisti bianchi che si stavano affermando in quegli anni, in questo caso un giovanissimo Gene Krupa alla batteria, e vedo anche Frank Terschmacher al clarinetto, un clarinettista di origine tedesca divenuto molto famoso in quegli anni. La formazione di cui adesso ci andremo ad ascoltare questo brano, che si chiama China Boy, sono i McKenzie and Cordons Chicagoans, ovvero qui vi fanno già capire che dagli stati del sud si stava già emigrando verso il nord industriale, in special modo verso Chicago, che sia per i jazzisti che per i bluesmen diventerà un po' la terra promessa di quella fine degli anni 20 e di metà degli anni 30, anche per tutti gli anni 30 direi. La fame si faceva molto più sentire giù al sud e non nel prosperoso nord industriale. E la formazione di questi McKenzie and Cordons Chicagoans sono Jimmy McFarland alla cornetta, il già citato Frank Terschmacher al clarinetto, Mads Rowe, tra l'altro che nome tipicamente, non lo so, la ripetizione nel nome di una parte del cognome, fantastico. Mads Rowe al sax tenore, Joe Sullivan al pianoforte, Eddie Condon al banjo, Jim Lanigan al basso tuba e Gene Krupa, come già detto e già citato, alla batteria. Questa è una registrazione effettuata a Chicago l'8 dicembre del 1927. Questa è China Boy di McKenzie and Cordons Chicagoans, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. questa era China Boy di Mackenzie and Condons, Chicagoans. E adesso, sempre di seguito qua da questa storia del jazz, appunto curata dal primo volume della storia del jazz curata da Arrigo Polillo, ci andremo ad ascoltare il brano immediatamente successivo, che qui siamo sempre nei territori primordiali di New Orleans, con un altro grandissimo interprete del suono di New Orleans, anche in questo caso però un bianco, un trombonista. Forse è stato uno dei primi a fare a usare una tecnica per suonare il trombone non ripresa da altri, dalla tradizione delle marching band di New Orleans, ma reinterpretandola un po' a modo suo. Infatti, e poi fece abbastanza scuola, e diversi altri accoliti dello strumento seguirono le sue orme. In questo caso è un altro brano da marching band, infatti si chiama Bourbon Street Parade. Bourbon come il bourbon, il whisky, ovviamente, che era un'altra famosissima strada di New Orleans insieme a Basin Street, e in questo caso a suonarla sono i Jack Teargarden and his sextet, con Jack Teargarden al trombone, ovviamente Don Goldie alla tromba, Henry Gesta al clarinetto, Don Ewell al pianoforte, Stan Pools al contrabbasso e Garrett Deems alla batteria, registrati in un periodo postumo, direi, perché questa registrazione risale al febbraio del 1961 ed è stata registrata a New York, però credo che i fasti siano quelli della New Orleans dei ruggenti anni 20. Andiamocela ad ascoltare, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. Questo era Bourbon Street Parade del Jack Teargarden and his Sextet. Meravigliosa, bellissimo questo pezzo in puro stile New Orleans. Però andiamo avanti, sempre qui da questa raccolta che ho già sul piatto. Infatti una gemma dietro l'altra, come fare a non mettere anche il brano successivo, che in questo caso appunto ci porta già ad un'epoca direi successiva anche nella storia del jazz. Abbiamo oltrepassato con tantissima fatica il periodo della Grande Depressione, di grandissima fatica soprattutto per le big band e per la povera gente, per l'intrattenimento, per le big band, perché anche per l'intrattenimento, essendoci tantissimi meno soldi per via della Grande Depressione, le big band andarono praticamente a sparire, se non nei grandissimi club che ne era rimasti appunto pochi ormai all'interno degli Stati Uniti, finanziati da persone con tantissimi soldi, tipo il Cotton Club, per farvi il primo nome che mi viene in mente. E appunto andiamo nell'epoca delle grandi big band, qui in questo caso una delle leggendarie big band che formavano, il cui nome erano dei fari all'interno della storia del jazz di quegli anni. In questo caso stiamo andando a sentire l'orchestra di Chick Webb, del batterista Chick Webb, che insieme alle leggendarie formazioni di Fletcher Anderson, di Count Basie, di Duke Ellington, mostravano appunto la via al resto dei musicisti in ambito jazz. E appunto della Chick Webb Orchestra adesso ci andremo ad ascoltare Blue Minor. In quel caso siamo nella formazione nell'orchestra di Chick Webb di metà degli anni 30, infatti è una registrazione avvenuta a New York il 6 luglio del 1934, e in questo caso nell'orchestra di Chick Webb troviamo, oltre al band leader, alla batteria, abbiamo Mario Bausa, Bobby Stark e Taff Jordan alle trombe, Fernando Arbello al trombone, Pete Clark, Edgar Sampson ai sax alti, Elmer Williams al sax tenore, Wayman Carver al sax tenore e al flauto, Joe Steele al pianoforte e John Trembhart alla chitarra, con John Kirby al contrabbasso, che chiude questa, i membri di questa big band di Chick Webb. E quindi adesso andiamo, facciamo un salto nella New York di metà anni 30 con la Chick Webb Orchestra, e qui siamo sempre a Basement Records, Radio Wombat. Recuperi vinilici. Questa era la Chick Webb Orchestra che ci siamo andati ad ascoltare appunto nel primo volume della storia del jazz, edito da Fabbri Editori, che è uno dei vinili di recupero di stasera. E torniamo indietro a un altro precedente vinile già messo stasera, ovvero quello sulle band di Kansas City, perché andando a parlare di formazioni storiche, di big band storiche di quegli anni, che poi era nel pieno, erano nel siamo nel pieno boom dello swing, come non parlare appunto della leggendaria formazione del Conte, di Count Basie. Infatti Count Basie si era formato le ossa a Kansas City per poi trasferirsi nella più remunerativa New York City. però in questo vinile, che tra l'altro vedo che era un allegato in una di una storica rivista di musica jazz in italiano, che era Musica Jazz appunto, questo vinile era in allegato con la rivista nel numero del dicembre del 1983, disco fuori commercio, bellissimo, cioè, è anche il bello dei recuperi appunto. E adesso ci andremo ad ascoltare l'orchestra di Count Basie con un suo pezzo autografo, in questo caso scritto in collaborazione con il cantante Jimmy Rushing, che credo sia presente in questa registrazione. Questo brano è Sent For You Yesterday, da questo disco appunto che annovera tra i best of del suono arrivato in circa un trentennio da Kansas City. E questa è l'orchestra di Count Basie, che poi diventerà famosa appunto in quel di New York. Questo è sempre Basement Records, Radio Wombat. Mamma mia che cafone, non ho fatto neanche le presentazioni prima di far partire questo brano. me ne dolgo e tento di rimediare subito, dicendovele subito dopo. Infatti, questa era l'orchestra di Count Basie, della fine degli anni 30. Ormai si sente benissimo a un passo dell'esplosione del bebop. Siamo nella fase di passaggio tra lo swing e il bebop. Ancora lo swing ce la farà a resistere. Per qualche anno poi verrà completamente soppiantata dal nuovo genere nato sicuramente dalle fila dello swing, però con una connotazione completamente diversa. Infatti il bebop nascerà di lì a brevissimo, però appunto siamo il 16 febbraio del 1938 a New York. Questa appunto era l'orchestra di Count Basie, che per questa registrazione era formata da Ed Lewis, Buck Clayton e Harry Edison alle trombe, Dan Minor, Benny Morton e Eddie Durham ai tromboni, Earl Warren al sax alto. Niente poco di meno che Lester Young, Herschel Evans ai sax tenori, Jack Washington al sax alto e al baritono, Count Basie al piano, che ve lo dica a fare, Freddie Green alla chitarra, il grande Walter Page al contrabbasso e un giovanissimo Philly Joe Jones alla batteria. Da questo disco, appunto, passiamo al prossimo. Facciamo un altro passetto in quegli anni, ritorniamo appunto al precedente vinile, quello sulla storia del jazz curato da Arrigo Polillo. E adesso ci andremo ad ascoltare un brano che appena l'ho letto nella scaletta non potevo esimermi da non proporvelo. Sarebbe stato veramente un delitto. Infatti, abbiamo ascoltato in precedenza la formazione di Count Basie con Lester Young al sax. E quindi al sax tenore, scusate, e in questo brano lo ritroviamo ovviamente al sax tenore anche qua, in un brano però di un anno precedente. Infatti risale sempre a New York del 1 giugno del 1937, però in questo caso faceva parte dell'orchestra che andava a accompagnare l'immensa e leggendaria Billie Holiday, che vi invito, se vi interessa, vi invito a andarvi a recuperare la lunghissima puntata biografica su Billie Holiday fatta a Tonight Alive un paio d'anni fa, se non ricordo male. Però appunto qui siamo nel periodo durante la collaborazione con Teddy Wilson e come già detto, accompagnata al sax tenore da il suo amante, compagno, amico, confidente. Non si è mai capito qual era il ruolo in realtà di Lester Young con Billie Holiday. Poi una formazione con Walter, ancora per questa volta Walter Page al contrabbasso, che appunto ricordo è stato uno dei primi grandi contrabbassisti a avere un certo modo di suonare il proprio strumento in maniera diversa dagli altri, in questo caso il contrabbasso, in questo caso Walter Page, poi sempre Joe Jones alla batteria, poi abbiamo ovviamente Billie Holiday alla voce, Buck Clayton alla tromba, Buster Bailey al clarinetto, Teddy Wilson al pianoforte e Freddie Green alla chitarra. e questa è Billie Holiday con il direttore d'orchestra Teddy Wilson, e questo brano è I'll Never Smile Again, sempre, sempre molto allegra la nostra Billie, del primo giugno del 1937, ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat. Il bello della diretta. Questa era la leggendaria Billie Holiday con l'orchestra di Teddy Wilson, con Lester Young e Joe Jones e tantissimi altri che appunto vi ho già detto prima, una grandissima orchestra. Qui siamo già in un momento di passaggio, siamo già al limite del bebop e... cioè, ora, non in questo caso per il brano che abbiamo sentito, ma come anni. Infatti il prossimo pezzo sarà di un autentico maestro di quello che poi verrà definito bebop, anche lui proveniente, che si è fatto le ossa nelle orchestre di Kansas City. E stiamo parlando del mitologico uccellino, The Bird, di Charlie Parker, che in questo caso andremo ad ascoltare con uno dei suoi pezzi classici, ovvero Coco, in questo caso registrato qui già, posso dire con certezza che avesse raggiunto già un'estrema notorietà. Infatti stiamo parlando di un brano registrato al niente po' di meno che alla Carnegie Hall di New York il 29 settembre del 1947, quindi in piena esplosione del bebop, la voglia di stare fuori e di vivere degli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in piena esplosione di questo nuovo genere che oltrepassa lo swing. E qui stiamo parlando appunto di un brano autografo di Bird, di Charlie Parker, ovvero Coco, che in questo caso era coadiuvato dal suo fedelissimo amico e nonché sodale della costruzione delle regole del bebop, ovvero Dizzy Gillespie alla tromba, John Lewis al piano, Al McGibbon al contrabbasso e Joe Harris alla batteria. Questa è la band di Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Questa è Coco del 1947. Qui siamo sempre a Basement Records, Radio Wombat. Yeah. nel caso in cui ve lo stavate chiedendo, no, non è il classico errore del vostro pena poco. In questo caso la velocità era quella normale, non era né a 45 giri e né pitchata a più 5 come nei primi, erano proprio Charlie Parker e Dizzy Gillespie che nel loro più classico stile, come si direbbe dalle mie parti, andavano veramente come le palle di fuoco. Benissimo, e dopo questo apice, questa roba incredibile, si sente già, secondo me, il passaggio netto rispetto a un punto precedente, cioè il crack che hanno fatto Charlie Parker e Dizzy Gillespie e il resto dei loro sodali, iniziando quello che poi la critica musicale ha definito come bebop. Direi che si sente notevolmente qui lo stacco dalle big band dell'epoca swing, nonostante nelle ultime si sentisse già un qualcosa che poi avrebbe portato alla massima espressione dei solisti a discapito appunto delle orchestrazioni, delle grandi big band. Però al di là di questo, appunto, ora questo era, tra l'altro, mi ero scordato di dirlo, era un altro vinile che andremo sicuramente nelle prossime puntate poi a esplorare. Anche questa una raccolta, sempre un allegato, tra l'altro, della rivista Musica Jazz, perché vedo che era questo disco era in allegato il febbraio del 1984. Vi ripeto, tutta roba recuperata e ritrovata appunto all'associazione di volontariato manitese, e quindi ritorneremo sicuramente anche su questo vinile, perché vedo dei giganti dello strumento, ovviamente i maestri del sax alto. Si parte da Benny Carter per poi andare a Johnny Hodges, Charlie Parker che ci siamo appena ascoltati, Lee Konitz, Paul Desmond, Phil Woods, Cannonball Adderley, Art Pepper, Ornette Coleman, Eric Dolphy, fino a Anthony Braxton, che arriva tra l'altro con una registrazione effettuata a Firenze il 19 luglio del 1982, che sicuramente ci andremo ad ascoltare in una delle prossime puntate di Basement Records, perché questo vinile ve lo riproporrò sicuramente, essendo una tale miniera di giganti di tale strumento, ovvero del sax alto. E come ultimi brani di chiusura, perché qua non stiamo parlando di un singolo brano, andiamo a recuperare un altro grandissimo di quello che poi sarà definito bebop, in questo caso un maestro del piano, stiamo parlando di Lenny Tristano e di questo album che ho recuperato. Tra l'altro leggo nelle note di copertina che fino all'anno della sua pubblicazione, ovvero il 1988, questo disco era fuori commercio per il mercato italiano, non era mai stato edito in Italia. E qui ci sono una serie di registrazioni di Lenny Tristano, però suddivise in tre momenti diversi. Una, che è il lato A di questo vinile, registra il Lenny Tristano Trio alla fine degli anni 40, tra l'ottobre del 46 e il maggio del 47, però non era questo il periodo che volevo farvi ascoltare, ovvero non era questo quello che volevo farvi sentire da questo vinile. E se andiamo sul secondo lato, I primi tre brani sono Lenny Tristano in piano solo, dove ovviamente interpreterà tre brani in solo con la sua superba, sopraffina tecnica pianistica, però invece volevo farvi ascoltare gli ultimi quattro brani di questo disco. Ora non vi preoccupate, in totale durano una decina di minuti in totale, perché credo sia un documento molto molto interessante di questo vinile, perché in questo caso era un all star, in ambito cestistico si direbbe un all star game, ovvero Barry Ulianov, il redattore, il presidente, il non so come definirlo, di una delle maggiori riviste jazzistiche del periodo, insieme a Downbeat, ovvero Metronome, alla fine dell'anno tirava un po' le somme, e in questo caso aveva invitato facciamo così, faccio prima a leggervi direttamente le note di copertina che riguardano queste ultime quattro brani qui selezionati per voi di Lenny Tristano. Leggo direttamente dalle note di copertina di questo vinile, uno dei fascini dei recuperi vinilici è che appunto nelle copertine si trovano tantissime informazioni, che c'entra, anche nei CD c'erano, però credo che nei vinili questa cosa ci sia ancora più presente, molto più evidente secondo me che nei CD. Quindi vado direttamente a leggervi le note di copertina che riguardano questi ultimi quattro brani che ci andremo a sentire. E da ultimo un documento singolare tratto dalla seconda di due sfide radiofoniche di mezz'ora fra tradizionalisti e modernisti. Il programma Bands of Four Bones, ovvero complessi a confronto, fu registrato nella stazione WOR della rete Mutual e distribuito poi alle radio del network che lo richiedessero. Questa edizione, con tutti i brani del gruppo moderno, del cosiddetto gruppo moderno, aggiungerei io, perché era moderno per il periodo, quello assolutamente. Questa edizione con tutti i brani del gruppo moderno è la prima a velocità corretta, perché come avete potuto ben notare dai primi brani che vi ho messo stasera non era proprio così scontato. Ora, io non l'avevo fatta apposta, però chiudiamo il cerchio in questa maniera, giustificando il mio errore iniziale. L'annunciatore Bruce Elliott presenta il gruppo come la crema dei musicisti moderni, selezionata da Barry Ulianov, direttore di Metronome. Poi annuncia i solisti uno ad uno, chiamando però Lenny Tristano al turno di Max Roach. Quindi spiega che i due gruppi avrebbero suonato gli stessi tre pezzi e invita gli ascoltatori a inviare il loro voto per posta. Tristano odiava queste buffonate, ma perlomeno vinse il concorso, diciamo. Gli arrangiamenti parrebbero di Tristano e di Dizzy Gillespie. Questi ricicla schegge di altri suoi pezzi, come Tiger Rag, l'introduzione di Sean Fall e la variazione scritta di Dizzy Atmosphere. Lo spiritoso che alla fine dice che l'esecuzione ha tirato fuori la tigre dalla giungla del vecchio jazz e probabilmente Barry Ulianov. Quindi adesso ci andremo ad ascoltare questi ultimi quattro brani da questo disco, uno dietro all'altro, senza interruzione. I brani in questione, allora, in realtà sarebbero 5, però Coco di Charlie Parker ce la siamo appena andati ad ascoltare, quindi mi sembra inutile farvela risentire. Il primo che ci ascolteremo, il secondo di questa particolare scaletta, è On the Sunny Side of the Street, il terzo How Deep is the Ocean, il terzo è Tiger Rag di Nick LaRocca e in chiusura il 52 Street Theme di Thelonious Monk, il leggendario brano un po' manifesto di tutto il bebop scritto dal maestro Thelonious Monk, appunto. E quindi questo gruppo di All Star invitato da Barry Ulanov di Metronome, andiamoli a citare, perché sono Dizzy Gillespie alla tromba, John Laporta al clarinetto, Charlie Parker al sax alto, Lenny Tristano al piano, Billy Bauer alla chitarra e Ray Brown al contrabbasso e il mitico Max Roach alla batteria. Questa è una registrazione effettuata a New York il 20 settembre del 1947. E questa è la Barry Ulianov All Star Modern Jazz Musician, con questi ultimi 4 brani qui per Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? We'll be right back. Basement Records, Radio Wombat. Basement Records, Radio Wombat. Questo è Tiger Rag di Nick La Rocca. We'll be right back. sure took that tiger out of the jungles of jazz. Well, thank you very much, boys. And while you've been having an argument, we've been having a good show, and the people have been listening to Bands for Bonds, which was produced by Larry Dorn in cooperation with Wynn Goulden, came to you from our mutual studios in New York. Today we featured Rudy Blesch's All-Star Stompers and Barry Ulanoff's All-Star Modern Jazz Musicians, which has been presented by the Mutual Network and the United States Savings Bond in cooperation with the American Federation of Musicians, James C. Pertillo, President. Carl Caruso speaking. This is the Mutual Broadcasting System. E questi erano gli ultimi quattro brani, appunto, selezionati per voi dai vinili di stasera, dai vinili di recupero di stasera, di questa 47esima puntata di radio, di Basement Records, ovviamente qui su Radio Wombat, lo volevo dire prima. E vi lascerò come di consueto, ricordandovi gli appuntamenti di domenica, di domani, qui sulle frequenze di Radio Wombat. Inizieremo alle 10 di mattina con Container, tutti i contributi che sono arrivati qua a Radio Wombat e non sono riusciti a trovare uno spazio all'interno delle trasmissioni preesistenti. Le troverete appunto domattina su Container alle 10 qua su Radio Wombat. Poi proseguiremo le trasmissioni con la replica di Libri Ribelli, gli audiolibri letti dal Buon Sansa, che allieteranno appunto il La domenica prima di pranzo, e poi il consueto appuntamento con la diretta del notiziario anticlericale a mezzogiorno in punto, che appunto in questa mezz'oretta ci racconteranno cos'è successo di nuovo in ambito ecclesiastico e ce lo racconteranno domani appunto a mezzogiorno, da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo. E poi le trasmissioni proseguiranno con la replica di Wook Wops, la nuova puntata di Poi You Eat, che andrà in diretta dalle 15.30 alle 17.30. E poi l'altro attesissimo appuntamento della domenica su Radio Wombat con La Fuga del Gatto, il programma di musica classica qua su Radio Wombat, che inizierà le sue trasmissioni appunto alle 18, con conclusione alle 19.30, tutto diretto dalle mitiche Bloody Mary e Virgi, che saluto come di consueto. Poi le dirette della fittissima domenica del palinsesto di Radio Wombat proseguiranno con L'Arte del Vizio in diretta dalle 19 alle 21, per poi concludere il palinsesto delle trasmissioni di Radio Wombat con la replica della nuova trasmissione, ovvero il furto delle trasmissioni altrui, furto dalle radio gemelle del network di Radio Wombat. Non vi voglio anticipare niente, ascoltatevele, perché ovviamente, essendo trasmissioni riproposte da altre radio, giustamente è perché ne vale la pena di farle ascoltare anche ai radioascoltatori di Radio Wombat, e ce ne siamo appropriati. E quindi non mi resta altro che chiudere la puntata di questo sabato sera. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io in questo viaggio tra i vinili di recupero, e non posso far altro che rinnovare l'appuntamento per il prossimo sabato, chissà con altri recuperi vinilici con Basement Records oppure nuove puntate di Tonight Alive, chi lo sa, qualcosa bolle in pentola. State sempre in ascolto qui sulle puntate di Radio Wombat, che comunque Tonight Alive all'improvviso tornerà con le sue monografie. Non posso che augurarvi un buon proseguo di sabato sera, un buon fine settimana a tutti qui dal vostro Penapoco e al prossimo appuntamento qui sulle frequenze della leggendaria Radio Wombat, radiowombat.net e 1359 in AM per il territorio fiorentino. Un saluto a tutti e un buon sabato sera. Viva Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.